stanco di sta vita. Prendo largo, mi smarco dagli avversari e fatica. Più ti avvicini, più io scappo, ad un tratto sembra finita. Te la tiri, più io spacco, ti stacco tutte le dita con cui scrivi. Ti passa la voglia, vivi in una fogna scolorita. Come me la mia metà, vivi metà di sta città. L'altra metà non se la dai, continua a farsi fottere senza pietà, senza guardare in faccia la realtà che se ne va puttane. Segue i sogni, cerca grano, uccide i sogni, crea bisogni in ogni casa popolare. C'è chi gioca a fare il ricco, fa le ferie, non c'ha da mangiare. Scopa per profitto, un po' per gioco, un po' per farsi male. Pare che non si possa più stare senza cellulare. Mi facevi i conti, taglio i ponti con chi sta in un harem. Se non hai problemi o c'hai la mamma vai a rubare. Se non so che cazzo dirti, cazzo ci becchiamo a fare. Matematico, mi stai simpatico le prime volte. Poi appena ti allarghi, non lamentarti, chiudo le porte. Sono questo e mi detesto, ma purtroppo è troppo forte. L'arroganza e la furbizia, io vorrei vederle morte. Le persone sono sorde, parlano ma non ascoltano. Io stesso non ascolto e non parlo e non mi ricordano. Non vinci se non giochi, se fingi sei come tutti. Sto coi pochi veri, coi miei pensieri senza i tuoi trucchi. Raccontami come sai che ti rispondo coi rutti. Ti monterei la tua lei, la fregna che sta coi brutti. Non posso né son felice, o di meglio ma resta sveglio. C'è un sacco senza orgoglio che sanno lasciare il segno. Mi impegno quando ho bisogno, non chiedo il governo al regno. Si sa che tu sei un indegno, dal ghigno sembri in Mourinho. Sei pronto a pagare pegno, se vuoi rovinare la festa. Ti avviso partita persa, ma accetto la tua scommessa. Endos che ti picchia in testa, il Messi della crew. Prende palla, ben porta, fa quello che non fai mai più. Nella resta resti in mezzo, il tuo pezzo passa la cresta. Fosse il campo, io mi sento Xavi, Simo sembra Iniesta. Senti quando arrivo, sono Simo, c'hai problemi. Mi presento, stai attento, bello a me, non me lo meno. Non mi arrendo anche se a volte fraceno i coglioni pieni. Sto alla larga perché porti sfiga come Crisantemi. Tutti scemi, sarò onesto, cago questo testo. Spesso io amo il verde, non è pesto, calpesto l'MC molesto. Odio alzarmi presto, presto, attenzione ad ogni mia azione. Se detesto te, c'è una ragione, fan testo, testosterone. Testo sto torcione, non mi serve il dop, no. Tu fai ridere come una tartaruga che fa giochi. Giochi a questo gioco, il preferito della crew. Pugni e calci contro il sacco, cazzo fra sacco sei tu. Non ridi più, fra non ti sarei mica offeso. E allora non guardarmi così da cerebro leso. Peso queste rime col tanita, quanto peso do alla vita. Toro senza la corrida, vinco io questa partita. Fino a che è finita, tengo la matita tra le dita e la tua faccia, puff, sparita. Cerco una via d'uscita sulla strada del rap. La mia vita sopra un foglio, grido al mondo, you suck, you suck. Boom, boom, c'ha il cuore a ritmo di battuta. Un'altra hit bomba come quella di Battistuta. Sputa sulla mano prima di darla l'infame. Simo XX tape allerta come un pesce cane. Cavalco questa base come un surfista sull'onda. Faccio slalom tra i nemici, manco fosse Alberto Tonda. Fai l'esperto, ma hai scoperto adesso che la terra è tonda. Se non trova aperto Simo, questa porta te la sfonda. Passo e non lascio l'impronta, sbronza che non passa mai. Io rime così segrete che non le trova, se sai cosa fai. Devi avere gli occhi dietro in sta città come Francesco Benigno. In da sta cella non c'è voglio, sta su sto foglio. Fra vedo un mondo diverso, ma sono in botta di trip e mi sa che mi sono perso. Io non scherzo, ti ha infamato qualcuno, non lo dimentico. Lo vendico, ti vendi, bro, una merda, tu sei identico. Col coltello tra i denti, fra i pirati dei Caraibi. Ma qui non c'è Johnny Depp, da paura come Shiny. Sangue pesa come zaini per gli alunni con i libri. Quando butti fuori tranquillo 10 minuti, vivi i libri. Dopo che lo fumi viene bene per i semi. Ma voi froci anche con l'erba, vi piace più il maschio scemi. Cremi con piacere questo fumo cancarrone. Vedo che voi ci sballate a fumarvi sto copertone. Non ricordo il nome, mi saluta dandomi la guancia. Non ricordi come hai fatto, fatto sta che l'è la pancia. Fame chimica si mangia, nelle cuffie suona note. Indispensabili come la canna della buonanotte.